Oggi è giovedì, no? Sì. Quindi Thursday. Come fa? Giovedì. Ecco. O Donna Stag. O Donna Summer che è morta. Ebbene sì. È morto. Credo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Drago, mi scappa la pipì. E quindi? Non lo so. Vuoi già andare via? Ma sì, sprofitto, vabbè. Dai. Ma senti, fammi venire in mente, fai dei discorsi a caso, perché devono venire in mente le cose caso. Che ho sognato stanotte. Devo fare la pipì. Ecco, no, non mi viene in mente niente. Vedi? Perché mi sono svegliato con questa sensazione di aver sognato una cosa importante, risolutiva per la mia vita, solo che adesso non mi ricordo niente. Ma succede. Poi vedrai che ti torna tutto in mente. E meno male, perché come gli gnocchi, no? Salgono dopo un po'. Ah, speriamo. Perché era tutto chiaro, era lì, tutta la soluzione precisa nella mia vita, tutti i problemi, era lì. Ma no, ma in solito, Drago, succede che uno crede di sognare delle cose fondamentali, poi nella vita vera, fuori dal dormiveglia, dalla fase REM, sono delle stupidaggini. No, ma io ti giuro che era una cosa importante, una cosa che rendeva chiare le dinamiche di solito incomprensibili della nostra vita terrena, capito? Vabbè, ma adesso cosa hai sognato? Ti ha parlato l'entità? Zaratustra, ma te lo giuro, ero così contento nel sogno, poi però è suonata la sveglia e ha sparito tutto. Ma se non te lo ricordi, è perché non era così importante. Ma smettila con sta come quando cosa. Devi dire una cosa importante sul momento non te la ricordi più, quindi... capito? No, ma sono scherzi della mente, sì, flash improvvisi ma casuali, ma, però senza non è vero. Struttura, Drago, non così. È vero, dai, ma cappa, che il ne nostro sai cervello conserva informazioni che noi non sappiamo nemmeno di avere. Sì, nemmeno poi tu, a volte le tira fuori senza motivo per una frazione di secondo e dopodiché spariscono, capito? E diciamo che non possono essere informazioni vitali queste qui, devono essere per forza stupidaggini. No, perché le informazioni vitali non si nascondono nella corteccia cerebrale. Ma tu che cosa sono dici? Sempre presenti, Drago, non è che ti ricordi di mangiare e di bere, capito? No, o di respirare. Cioè, gli stimoli. Ci sono gli stimoli esterni ti fanno tenere a mente le cose davvero importanti. Per tutto il resto bisogna essere freschi, giovani, capito? No, freschi, allora giovani. Anche le informazioni secondarie brillano in tutta la loro lucentezza. Che bello. Da anziano come te purtroppo le cose vanno diversamente. Ma, questo lo capisco, no, diversamente mi piace perché io non sono anziano, io sono diversamente giovane, capito? Ecco. Non disturbare il cane che dorme. Vabbè, si vede come dorme, ringhia. Sì, dai, ma fino un attimo fa dormiva. Poi tu dici delle sciocchezze tipo diversamente giovane e lui si arrabbia, giustamente. Vabbè, bravo Tito, bravo. Allora, mi fido. Cane, dai. Allora vorrei dire che il sogno di stanotte mi tornerà in mente quando meno me lo aspetto. Sì, ecco, adesso però possiamo cominciare. Ma cosa vuoi cominciare? Ormai sono settimane di paranoia incredibile qui all'asilo, ormai vige il terrore, i genitori hanno paura di portare i figli per via delle bombe, del terremoto. Vabbè, tutto Milano c'è mica stato il terremoto, no. si è sentito un po', ai piani alti si è sentito. Ma il terrore regna sovrano, qui all'asilo siamo solo io e te, guarda, il bambino Alberto non c'è, Ioris nemmeno, non vedo nemmeno il bidello. C'è nemmeno la suora. Nemmeno lei. Possiamo giocare, non so, facciamo una notte al museo, anzi facciamo... Una notte al museo. Sì, vabbè, un pomeriggio all'asilo e una notte al museo c'è una bella differenza. Certo. Pensa a un bambino cui si propone l'alternativa una notte al museo versus un pomeriggio all'asilo. Facciamo un pomeriggio al museo. Ah, che bello. Questo è molto divertente. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Get out of here. Please pass the milk, please. Chaps, truts, shuts, fruits, fritz, truts, vroom, big. Fumetti di Chiedo Asilo continuano la loro ascesa di visualizzazioni e di condivisioni, la crescita veramente su YouTube e se Facebook. Dobbiamo parlare di crescita. Crescita, la vera crescita lì, è nelle views. Ecco, queste views, visualizzazioni, condivisioni sono termini che fino a poco tempo fa non significavano assolutamente niente e adesso invece significano improvvisamente tutto. Ma perché il nuovo totem della comunicazione non è l'Auditel o l'Audiradio che non esiste più, non è la Hit Parade di Cecchetto o la classifica di Billboard. No, no. Figure. Nemmeno i dati di vendita delle librerie contano più un tubo. Niente. Adesso si vince col click. I click sono il patrimonio che ogni giovane aspirante artista porta con sé quando, finita la gavetta, si avvicina agli editori veri. Click. Editori veri che sono costretti dalle mode a considerare importanti i click. Click. Ma che in cuor loro sono ancora rappresentanti della vecchia guardia che i click. Click. Non sapeva nemmeno che cosa fosse. Basta un click, però. No, aspetta, K. Cosa c'è? Aspetta. Hai detto una cosa che mi ha fatto venire in mente. Cosa ho detto? No, mi porta qualcosa del sogno di stanotte. Click, click. No, vabbè, basta un click, forse. No, è una frase fatta, dai, di oggi. Basta un click e prenoti le vacanze. Giusto, soprattutto, no. Basta un click. Non lo so, e Mark Zuckerberg passa da un patrimonio di 11 miliardi di dollari, sì, a un patrimonio di 28 miliardi di dollari. E poi magari, chissà, 75 miliardi di dollari. Sempre a colpi di click. Basta un click. Vabbè, ma 75 miliardi di click. Qualcosa con il sogno di stanotte, il click. Aveva a che fare con Zuckerberg. Non credo, no, mi sembra che c'entrasse Belen Rodriguez, adesso che ci penso. Allora ho capito che sogno hai fatto. Dai, è un sogno che più o meno hanno fatto tutti in questi mesi, dopo la pubblicazione del video porno di Belen e il suo fidanzato dell'epoca. Ma cosa dici? Era un sogno filosofico, non erotico. Sì, la filosofia di Belen. Vabbè, potrebbero fare un libro, si intitola così, filosofia di Belen. Vabbè, del Belin. Però in ogni caso torniamo al click. Dicevamo che basta un click e tutto cambia, no? Sì. Però i nostri fumetti, ad esempio, loro sono genuini e mostrano i loro click effettivi, se vai su YouTube, no? No, lo so io. Invece si è scoperto che per poche centinaia di dollari uno si può acquistare interi pacchetti di finti amici, di finti follower, di finti mi piace, di finte visualizzazioni, condivisioni. Insomma, non appena si è capito che i click diventavano fondamentali, si è subito creata l'industria del finto click. Mi sembra una figata, facciamolo anche noi, no? Ma no, se cominciamo tutti a dopare, gonfiare il reale valore di un prodotto, allora poi tutto va a rotoli, scusa. Cioè, meglio, click, no? Cioè, meglio cosa? Ma meglio, ma scusa, giusto che prima o poi anche i click perdano il loro significato. Anzi, secondo me manca poco. Non è possibile che la gente sia così stupida da credere nei click. Cioè... Pronto? Sì? C'è qualche problema? Ah no, lo sappiamo, ma no, ma guarda che sono click veri, non sono poi così pochi. Ah, il programma che ci precede ne ha 600 milioni. Vabbè, ma forse non tutti veri li ha comprati, No, non lo so per certo, ma visto il numero... Ah, dobbiamo raggiungere anche noi 600 milioni di mi piace. Beh, ci proveremo, ma dato il budget presente. Ah, il budget non c'entra. Ah, d'accordo, ok, ce la faremo, non si preoccupi. Ma chi era? Chi era secondo te? Il direttore. Era il direttore. Vabbè, infatti parla con te, io non c'entro. Si è intrippato di click anche lui. Anche lui fino a ieri credeva che click fosse il rumore della pistola scarica, no? Che spara vuoto. Invece adesso vuole da noi il raggiungimento di quota 600 milioni di mi piace sulla pagina Facebook di Chiedo Asilo. Ci vuole, li compriamo, no? Ma come comprarli? Come compriamo 600 milioni? Ma ci rivolgiamo a un mercato nero cinese di click, no? Sì, ci saranno pacchetti di migliaia di click fatti dal signor Hu a capito? Sì, qualunque capito. Signor Hu. Però vabbè, uno signor Hu vede la pagina italiana, un programma radio italiano, poi vede i follower, sono tutti cinesi. Ma cosa pensi? Cambiamo il nome, no? Da Chiedo Asilo a Chiedo Asiro. Sì, Asiro. Così pensano che si tratti di un programma per i cinesi in Italia. Vabbè, dai, tipo, no? Ottima idea, dai, cominciamo subito. Dai. Benvenuti a Chiedo Asiro. Programma in lingua italiana per un pubblico cinese. Ma secondo te funziona? Boh. Ah, adesso mi è venuto in mente quello che ho sognato stanotte. Vedi? Lo vedi? Vedi? Hai sognato gli gnocchi? Sì, no, una cazzata peggio ancora. Ma te l'avevo detto, Drago, peggio ancora. Sai, mi è venuto in mente quel proverbio che dice che il battito di ali di una farfalla può causare il crollo di un grattacielo a Manhattan. Sai quello lì? Sì. Come era venuto in mente nel dormiveglia? E se la farfalla in questione fosse quella tatuata sulla coscia di Belen? Disastri ne ha causati abbastanza, anche a distanza, dai, no? Ma chiudiamo qua, ma perché, dai, pensaci bene, la farfalla corona l'incidente in moto. China girl. China girl. Vai. You China girl. And in my car. You China girl. Ma cosa sarebbe dire? O devi sentire. Break your heart in two. Chiedo Asilo, torna domani, Chiedo Asilo. Chiedo Asilo, un programma, un grandissimo programma di Radio 24. Non fa ridere, grandissimo. Sì, grande fa ridere. Ah, grande.